mia moglie che è 76, mi ha fatto fatica a parlare, che era pensando di essere l'ho conosciuto io che avevi 18 anni. Però è sì, in termini generali lo so, ma se prima ci si collide, si entra in collisione. Sull'altro discorso, un discorso più complicato per me, però io credo davvero che quella sia una cosa diversa, cioè il vecchio movimento operaio dell'Ottocento e del Novecento riteneva che gli episodi che lo riguardavano avessero una valenza universale, diciamo che si automanifestava. Questo non è più possibile. E questa memoria del 77. Perché io non la ci faccio gli alcuni senza mia casa. Tipo li abbracciamo, li facciamo guidare viva massa. C'è Luca la mia esperta. C'è una cosa che mi interessa. Perché abbiamo visto Angela, ciao. Sì, perché Facebook è una formazione. Ehi! Eccole! Prima ho cercato tutti i punti da sopra, da sotto, da dietro per vedere, ma dicevo, io non vedo sicuramente, non trovate solo i miei. Mi stavo chiedendo. Come in discoteca. Sì, ma infatti era ad alzare un po' secondo me. Mo? No, ecco Katia. O French, io so. Come Marianna? Io lo alzerei. Allora no. Vabbè, però tanto da vado. Anche del conformismo, diciamo. Cinque per cento. Noi eravamo un gruppo di intellettuali, di studenti, non eravamo sicuramente i compagni dei lavoratori. quindi ovviamente tentando un percorso classico di corsi non siamo stati assolutamente annientati. Tutto questo è successo, noi sappiamo quello che è stato, questo è stato bloccato, adesso lo riprendiamo, i centri sociali hanno portato avanti alcune idee, ma non potranno mai esprimere la potenza, la ricchezza, il senso della politica e della gestione del potere che noi abbiamo espresso. Grazie a tutti per essere stati presenti, dobbiamo finire qui. Il risultato principale credo sia anche...